Benvenuta Alessia Tona. Salve a tutti, salve. Alessia cura la regia dello spettacolo Clitennestra, voi la mia coscienza, io il vostro grido, che sarà al Teatro Torbella Monaca a Roma dal 21 al 24 di febbraio. Alessia, lo raccontiamo un po'? Diciamo che è un lavoro che parte dal mito classico di Clitennestra, quindi parte dalla tragedia antica e si fonde con il dramma moderno, fondamentalmente ecco, con i fatti di cronaca che attualmente diciamo, siamo abituati ad ascoltare in TV. Il fatto a cui diciamo, noi ci leghiamo come compagnia proprio all'interno della rappresentazione è un fatto di cronaca avvenuto molto tempo fa, in realtà 17 anni. Ed è quello che riguarda le cronache di Novi Ligure. Non so se ovviamente si ricorda questo avvenimento, quindi si parla anche in questo caso di matricidio. E, diciamo, il legame fondamentale dalla tragedia a questo evento è appunto è Elettra all'interno dell'ambito di Clitennestra che appunto compie a questa figura, insomma. Senti, come avete voluto centrare l'attualità rispetto al mito? Perdonami, non ho sentito. Come avete voluto centrare l'attualità, attraverso il mito? Beh, abbiamo lavorato molto sul dualismo dei personaggi, quindi il lavoro della compagnia è stato affrontato anche da questo punto di vista, quindi proprio la dualità e la doppia valenza quindi dei principali protagonisti dell'opera, per esempio appunto la ragazza che porta in scena il personaggio di Elettra e anche quella che porta in scena il personaggio di Erika, riguardante appunto i fatti di cronaca di cui ti parlavo, come Egisto, e Omar, e poi ci sono vari dualismi che riguardano anche la figura di Cassandra, che viene vista un po' come la parte anche psicologa diciamo, della vicenda. Quindi ognuno ha una doppia valenza, ecco. Senti, come ha avuto origine il progetto spettacolo? Allora, diciamo che va un po' oltre questo anno, infatti ci siamo conosciuti casualmente all'interno di una manifestazione al Teatro Vittoria di Roma e qui abbiamo cominciato a lavorare insieme su un progetto che in realtà all'inizio era semplicemente un corto teatrale. Quindi già era difficile di per sé perché il progetto diciamo, era sempre lo stesso, però era chiuso in 15 minuti. Si sviluppava più che altro in ambito fisico e musicale, infatti quasi il spettacolo è nato da improvvisazioni sia fisiche che vocali. E successivamente poi insomma, ci siamo messi a lavorare sul testo e siamo stati tutti insieme in questa elaborazione, nel senso proprio tutti gli attori insieme a me ci siamo messi a riscrivere l'intero spettacolo, ecco. Quindi è diciamo, una riscrittura a 16 mani. Anche se dall'idea alla regia mi sembra forte il marchio, tra virgolette, di genere. Relativamente perché diciamo più che un marchio di genere c'è cioè un marchio forse della compagnia, nel senso che la rappresentazione in sé non è legata soltanto al mito, quindi a quell'ideologia diciamo, di rappresentazione del mito classico che si ha solitamente, ma è un qualcosa, io credo almeno, è quello che pensiamo estremamente, non estremamente, ma moderno, insomma una teatralizzazione un po' diversa ed è forse un marchio della compagnia, una tipologia ecco, nuova di messa in scena sotto alcuni punti, non nuova totalmente, ma comunque un modo di reinventare ecco, la parte classica. Ok, senti, ha avuto uno spettacolo nel corso del suo itinerario, ha avuto anche dei riconoscimenti. Appunto al Teatro Vittoria, per quanto riguarda la tradizione teatro, abbiamo ricevuto il premio della critica per un contesto ben preciso, e cioè l'utilizzo di un particolare materiale all'interno dello spettacolo, infatti gli attori sono anche scenografia, ecco, plasmano la scenografia in scena attraverso l'uso di un telo. E quindi abbiamo ricevuto questo premio, poi proprio per questo siamo stati selezionati a Napoli per un concorso di corti, abbiamo vinto anche lì questo concorso, poi Maddalena Serratore è stata individuata come migliore attrice nell'ambito appunto di questa rassegna proprio a Napoli. Quindi, insomma, ci siamo fatti un po' di premietti in questo periodo di messa in scena, di inizio messa in scena, ecco. Alessia, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Assolutamente. Allora, intanto siamo, lo ricordo, in scena dal 21, quindi da domani al 24 febbraio al Teatro Tor Bella Monaca di Roma. C'è promozione @teatrotorbellamonaca.it per prenotare i biglietti direttamente al teatro, oppure sul sito di Viva Ticket trovate tutti i riferimenti al teatro stesso e quindi alle nostre date. Alessia, un saluto, un in bocca al lupo e a risentirci Grazie, presto. grazie, grazie a voi.